quello che realmente ha cambiato il nostro modo di vivere e di essere, quindi non è tanto l'esistenza di questo modo di comunicare dei computer, ma il fatto che per la prima volta rispetto alla storia abbiamo una tecnologia che è quella digitale che consente la creazione, accumulazione e gestione di una quantità virtualmente infinita di dati e di informazioni. Le leggi che noi conosciamo, le leggi che funzionano per il mondo tradizionale, quello fisico, sono sufficienti anche per il mondo digitale o bisognerà fare nei prossimi anni un grande lavoro di ridisegno di queste regole? Bisogna fare anche qui una distinzione fra il livello politico e il livello giuridico. Guardando alla struttura giuridica dei sistemi occidentali, le costituzioni sono tutte quante ampiamente attrezzate per gestire i problemi posti dall'impatto delle tecnologie. Il problema serio è che a livello politico ci si è resi conto di una piccolo problema, e cioè che l'esercizio dei diritti individuali, come per esempio la libertà di manifestazione del pensiero, per la prima volta grazie a queste tecnologie diventa un esercizio possibile, e i fatti recenti, antipolitica e via discorrendo, dimostrano quanto sia efficiente la rete come sistema. Ne consegue quindi che il potere trova un po' stretto lasciare al cittadino la possibilità di esprimersi liberamente a livello globale. Il risultato pratico quindi è che la voglia di regolamentazione è una voglia di regolamentazione che mira a restringere i diritti che la Costituzione già ci ha garantito e per i quali milioni di persone sono morti durante la seconda guerra mondiale. Quindi dobbiamo preoccuparci per il futuro? Purtroppo sì, perché le tendenze che ci sono già a livello europeo e a livello statunitense stanno facendo sì che tutto sommato stiamo accettando delle forti limitazioni ai nostri diritti sulla base di uno stato di paura diffuso, e questo dovrebbe far pensare parecchio su quello che sta succedendo oggi in Europa.